Il 18 aprile del 93, con un referendum, gli italiani cancellano il finanziamento pubblico ai partiti e contemporaneamente scelgono il sistema elettorale maggioritario. Un anno dopo, nel marzo del 94, le elezioni segnano il crollo dei partiti storici e la definitiva affermazione dei nuovi protagonisti spinti dal vento dell'antipolitica. Dopo l'introduzione del nuovo sistema elettorale maggioritario, il quadro politico subisce una radicale trasformazione. In pochi mesi, a cavallo tra il 1993 e il 94, spariscono PSI e DC, il più antico e il più importante dei partiti italiani. La Lega conquista la poltrona di sindaco di Milano e un nuovo soggetto irrompe sulla scena. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Il sistema partitico della Prima Repubblica ha perso credibilità e i suoi costi sono diventati insostenibili. I numeri del ciclone Tangentopoli: 25.400 avvisi di garanzia, 45.525 arresti, 3.200 richieste di rinvio a giudizio, 1.254 condanne, 910 assoluzioni. Ma qualcuno ha chiesto scusa alle centinaia di persone che sono state imprigionate e poi risultate innocenti? Tutte le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni e il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.